Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono iscritta presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino, dove mi sono laureata nel 2002 con la votazione di 100 su 110. Ho un'ottima conoscenza della lingua inglese. Buongiorno, mi chiamo Maria Rossi, ho poco più di 20 anni e sono laureata a pieni voti in scienze della comunicazione. Hi, my name is Annalisa Borsari. I'm 26 years old and I'm graduated in economics. Buongiorno, nome e cognome Lucia Rosina, nata a Biella il 1968, giovane dentro. Laureata in chimica industriale, Università Statale di Milano 1993. La ricerca del lavoro potrebbe presentare dei nuovi sviluppi o perlomeno delle nuove prospettive. Trovare lavori non retribuiti. Può sembrare un paradosso, può sembrare stridere con l'idea centrale per cui si cerca lavoro, per essere retribuiti, ma evidentemente qualcosa nel mondo del lavoro sta cambiando. Perlomeno questa è una notizia che leggo questa mattina sulla Stampa di un bando di concorso per degli annunci di lavoro, però non retribuiti. Da questo partiremo per cogliere anche nell'esperienza dei nostri ascoltatori se esiste, se concretamente già c'è, già galleggia in aria questa idea che qualcuno possa offrirci un lavoro però senza retribuzione, per il fatto solo che comunque si possa lavorare e si abbia la possibilità di fare un'esperienza di lavoro, quindi aggiungere probabilmente al proprio curriculum un'esperienza lavorativa, però non retribuiti, nemmeno rimborso spese. 800240024, vi hanno mai offerto un lavoro senza che vi fosse dato il corrispettivo di stipendio? Vi è stato mai detto lavora per me però gratis, perché questo ti serve, questo ti forma? È una domanda, non è una maliziosa maniera di sottolineare qualcosa che in realtà non dovrebbe funzionare. Agenzia Servizi Operante del Settore Fieristico Congressuale cerca laureato o laureata per stage non retribuito. Sono richieste predisposizione al lavoro di squadra, flessibilità, ottime doti comunicative. Stiamo cercando una figura da inserire per uno stage della durata di 3 mesi presso uno studio di progettazione e arredamenti made in Italy a San Pietroburgo, Russia. Il candidato deve conoscere il programma 3D Studio Max, il disegno tecnico e un'ottima conoscenza della lingua russa. Lo stage non è retribuito e tutte le spese sono a carico dello stagista e ammontano circa a 2.100 euro. Questo è un cortometraggio preso da YouTube dove sono elencati un numero di offerte occupazionali non retribuite. Viene detto chiaramente subito, non c'è l'inganno, non c'è l'inghippo. Evidentemente c'è una richiesta probabilmente nel mercato del lavoro di persone che pur di lavorare accettano lavorare a spese loro, non retribuite. Giovanni Agnesò, buongiorno. Buongiorno. È direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ARPA, della regione autonoma della Val d'Aosta. Sì. Il pezzo che citavo questa mattina è uscito sulla Stampa di Torino e racconta di questa vostra richiesta di 2 posti di lavoro, poi me lo spiegherà meglio, 2 candidati con laurea magistrale, con un alto profilo curriculare, a cui viene offerto comunque un lavoro non retribuito. Mi spiega esattamente di cosa si tratta? Il titolo dell'articolo che è comparso questa mattina sulla Stampa non è giusto. Noi non assumiamo nessuno. No, dice cerca laureati disposti a lavorare gratis. Questo in effetti è vero. Ma noi offriamo una possibilità di collaborazione. Questo facciamo. Cioè, non è che noi abbiamo, come dire, dei posti in organico per cui chiediamo della gente che voglia venire a lavorare gratis, ma non ci sogniamo neanche di fare una cosa del genere. Noi offriamo la possibilità a laureati di frequentare ARPA in un modo che non è assolutamente collegato a dei vincoli contrattuali e non prevede tra l'altro nulla rispetto a orari o a rapporti con dei responsabili, no, semplicemente di collaborare insieme a nostri operatori esperti su un ambito che è indicato in questa... No, io ho in mano l'avviso di selezione, dice conferimento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito. Esatto. Per l'espletamento di aiutare. Cosa devono fare esattamente? Qual è l'attività richiesta? L'attività per cui noi abbiamo messo questo avviso sul nostro sito in un'ottica di trasparenza. No, no, è dettagliato, sono quattro pagine più anche, no? Che quattro sì, pagine. Sì, certo. È molto dettagliato, quindi è una cosa reale, non è un annuncio messo così. No, assolutamente, assolutamente. L'opportunità che noi abbiamo inteso proporre è quella di collaborare con nostri operatori di ARPA in quella che è la, come dire, vedere se ci sono possibilità di costruzione e presentazione di progetti da presentare per finanziamenti su base europea. Questo perché adesso inizia la fase del progetto europeo 2014-2020. Quindi bisogna fare i progetti per farsi dare i fondi europei, chiedere, sembra un'attività normale che fa un'amministrazione, ci sono dei soldi europei, facciamo dei progetti fatti bene, ben circostanziati, vediamo se possiamo partecipare al bando. Sì, noi abbiamo una notevole esperienza di partecipazione a progetti europei che viene dagli anni passati, abbiamo partecipato a tanti progetti europei, adesso si sta aprendo una nuova fase, abbiamo in ARPA delle persone che insomma espertizzate, che lavorano su questo. Comunque chiedete una collaborazione di alto profilo, vedo, con degli skill professionali molto precisi. Beh sì, evidentemente trattandosi di progetti europei la conoscenza delle lingue è importante. Sì, ma anche poi specifiche, diciamo, nell'ambito della capacità di gestire progetti legati appunto ai termini ambientali, quindi non è che sì, devono essere... Beh, certo, abbiamo sottolineato i temi su cui ARPA è attiva, i temi ambientali, li abbiamo indicati, ma per chiarezza. Voi a tutti gli effetti questi li prendete, non dico in organico, il termine è sbagliato, no, ma... No, assolutamente. Qual è il rapporto che vi legherebbe a queste persone? È una libera collaborazione, una libera collaborazione su base volontaria. No, non è che per esempio queste persone sarebbero soggette a vincoli di orario. Queste persone si vedono, possono frequentare... Si confrontano con i nostri operatori che già si occupano di questo, e questo può essere per queste persone può essere un'utile opportunità di entrare in contatto con un mondo che è quello dei soggetti, degli operatori che lavorano su tematiche ambientali a livello europeo. Ma siccome devono, diciamo, in qualche maniera collaborare a un'attività di fundraising, cioè di trovare fondi, non hanno nemmeno una percentuale dei soldi che riescono a portare a casa, detto in termini molto concreti? Ma allora... Questo avviso per una possibile collaborazione su base volontaria a titolo gratuito è preliminare al progetto, cioè è nella fase in cui, che è la fase attuale, la fase di questo periodo, di questi mesi, in cui si tratta di vedere che possibilità ci sono, che tipo di attività possono essere messe a progetto. Poi chiaramente il progetto deve essere approvato, quella è una fase successiva. Almeno sarebbero assicurati, ecco, per entrare dentro gli uffici fisicamente. Questo solo, scusi la domanda. Ma io... sì, da questo punto di vista. Almeno l'assicurazione, quella vale obbligatoria. Lei dice da un punto di vista di sicurezza. Certo, questo riguarda tutte le persone che chiunque entrano nella nostra sede operativa. E cosa avrebbero a disposizione? Una scrivania, una postazione di lavoro, un computer? Sì. Quindi fermiamoci un secondo, sentiamo qualche ascoltatore, perché il tema vedo che è una cosa nuova che non conosciamo, stiamo apprendendo per la prima volta, anche se l'impatto può sembrare abbastanza scioccante, però evidentemente se questo viene offerto c'è qualcuno disposto a fare questo tipo di attività. Mauro da Massa, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Ma dunque, io ho 56 anni e lavoro da poco meno di 40. La metà del tempo trascorso lavorativo è stato prima in carattere di dipendenza in grandi aziende, ricoprendo anche fino alla dirigenza di queste aziende, e da poco meno di 20 anni come piccolo imprenditore avendo un pubblico esercizio in una città turistica, un bar. E devo dire che io ho cominciato la mia attività quindi quasi 40 anni fa, proprio in questo modo, cioè grazie a una, le dirò di più, una raccomandazione per poter andare a lavorare gratis presso una delle più prestigiose agenzie di pubblicità di allora, tanto per senza dire il nome, dove sì, è nato il Mulino Bianco, il marchio Mulino Bianco. Era anche 40 anni fa, però era un po' diverso. Anch'io sono stato gratis in tante redazioni quando ero ragazzo, mi tenevano in piedi, nemmeno mi davano la sedia, a guardare gli altri che lavoravano. Il primo pezzo l'ho scritto dopo un mese che guardavo gli altri. E lei è arrivato dove è arrivato, probabilmente grazie a una buona scuola e avendo osservato persone che le hanno insegnato bene. Oggi si presentano... Cioè, non mi pare così scandalosa. No, mi ricordo ancora, adesso che ci penso, l'umiliazione che mi dice il direttore: ma guarda gli altri, ma dove mi siedo? No, ma stai qua, gira. Io, gli altri naturalmente mi guardavano come si guarda un intruso, uno che viene a portare via il lavoro agli altri. Quindi io sono stato un mese in piedi per corridoi, non dico la relazione. La sua esperienza non la conosco. Io ho lavorato con l'amministratore delegato di questa agenzia di pubblicità, che era anche il manager degli account, che mi ha non soltanto insegnato un approccio professionale, visto che ero un ragazzotto a quei tempi, su come confrontarsi con quello che poi sarebbe stato il cliente, ma mi ha anche insegnato delle tecniche un pochettino più sofisticate. Quindi secondo lei ci sta, è una cosa che ci sta, bisogna capire che in fondo è un'opportunità, uno tanto entra, vede saggia, nasa, se si dà da fare, troverà delle chance anche in questa maniera, io non ho pregiudizi. Mauro da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Senta, no, volevo dire, se quanto ancora vogliamo continuare a proporre dei contratti capestro di questo tipo. Ma questo non è un contratto, non è niente. Il contratto sono cose vergognose proporre, come è stato l'esempio di andare a San Pietroburgo a proprie spese a fare uno stage non retribuito. Ma questa gioventù che viene bruciata in questo modo, la nostra migliore gioventù, i nostri giovani sono il futuro della nostra ho capito, calmi un attimo, perché di prima mattina la sento un po' concetata. La migliore gioventù bruciata, abbiamo dato dei dati presi da internet, non è che nessuno obbliga nessuno ad andarci. È lecito proporre, se questo non incorre nei termini di contravvenire delle leggi, uno può dire, io posso dire a Fabrizio Intonti, da domani va a casa mia, lavami i piatti, puliscimi per terra, portami i figli a spasso e tutto, e dice: che mi dai in cambio? Niente. Sti va a farlo, se no ti metti seduto sul divano se vuoi. Se lui magari gli va, lo fa, può essere che lui piaccia. Proporre non è un reato, certo. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io mi è scappato subito da ridere quando ho sentito questa cosa delle queste nuove proposte. In realtà credo di non dire una cosa che non si sappia, comunque le università italiane vanno avanti così. Certo. In questo modo, cioè io ho fatto per anni, tu fai lezione, tu fai esami, tutto mai retribuito e non sei obbligato, ovviamente, quindi io l'ho fatto volentieri. Ma la cosa bella è che eri fortunato, cioè tu che eri stato scelto per fare esame e per fare lezioni, venivi... Cioè, si chiama il cultore della materia, che era il numero zero della sfiga della carriera universitaria, il cultore della materia. Che magari lui poi agli amici: ci sono professore, sto all'università, faceva il biglietto a visita, c'è sto professore, faceva gli esami, faceva tutto, ma era cultore della materia. Sì, però la novità è, e ci fermiamo poi un istante a dare le informazioni del traffico, che qua c'è un avviso di selezione reale, concreto, circostanziato, in cui vengono chieste le caratteristiche, non è una dici, beh, vieni qui, datti un po' da fare e vedi, che fa parte ancora, diciamo, del medioevo del lavoro non retribuito. Qui c'è una formalizzazione concreta e reale, e probabilmente sarà verificata, non incorre in nessuna contravvenzione, nessuna regola, nessuna legge. Noi proponiamo, questa è la novità e su questo vorrei riflettere tra un istante dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Mi chiamo Terenzio, ho 30 anni e sono di Forlì. Nel 2004 mi sono laureato all'Università di Bologna in psicologia del lavoro e con votazione 108 su 110 e con una tesi sull'analisi delle competenze dell'animatore turistico. E nel 2006 ho svolto l'attività di consulente junior per la selezione del personale e della ricerca del personale presso Profexa Consulting di Bologna. Attualmente sto svolgendo un'attività legata a un mio progetto sul video curriculum. 800240024, abbiamo al telefono Giovanni Agnisò, che è il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ARPA, regione autonoma della Val d'Aosta, che ha lanciato un precedente, secondo me, di cui naturalmente è giusto che parliamo. Ha fatto un avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a titolo gratuito per un'attività di raccolta di fondi europei. Qualcuno ha risposto? Avete già selezionato qualcuno, Giovanni Agnisò? Hanno risposto due persone, dobbiamo ancora, scadeva oggi l'annuncio, dobbiamo ancora vedere, aprire le... Non è tantissimo proprio, diciamo, no, due persone. No, non è tanto. Comunque abbiamo avuto due risposte. Ma lei non aveva nemmeno un minimo di budget proprio per dargli qualcosa, tanto per dire vi diamo un po' di incendio, vi diamo almeno, vi paghiamo la tessera dell'autobus, non lo so, il buono mensa. Non avevate proprio, non potevate fare nulla per questo tipo di attività. O è proprio una scelta, diciamo, ideologica per lanciare una cosa nuova, questo volevo capire. Ma no, ma non è che abbiamo fatto una scelta ideologica. Come è stato richiamato dall'ultimo intervento di Silvia prima dell'interruzione, sì. Cioè, ma non è una cosa strana il fatto che si dia la possibilità di collaborazioni di questo tipo? È un'apertura che ma noi ne parliamo per questo, che non sapevamo che cioè, potesse essere formalizzato. Cosa, quello che effettivamente è nuovo è che questa iniziativa, invece che venire da un'università, venga da un'ARPA. Diciamo, l'università la fa in maniera, diciamo, non proprio trasparente, qualcosa... Ma noi invece la vogliamo fare trasparente. Questa novità. Noi la vogliamo fare, noi crediamo a tutta la tematica della trasparenza e vediamo di interpretarla in un modo autentico, reale, ma come risponde a chi dice, scusate, questi vi danno un valore, in fondo, se vi aiutano avete bisogno di queste risorse... E non gli date niente in cambio. Come fate a dire che non state sfruttando il lavoro di altre persone? Ma la domanda è questa. Cioè, è una collaborazione volontaria e libera. Non ha vincoli di orario, non ha vincoli di rapporto con dirigente. Allora, che gliene viene a questi ragazzi? Cosa gliene viene? Gliene viene, come dicevo prima, diciamo, entrare a conoscenza di una dimensione, un mondo che è quello della... è quella delle persone che lavorano a livello internazionale su tematiche ambientali che possono diventare oggetto appunto di progetti finanziati a livello europeo. Poi dei progetti loro non ne becca niente, lo beccate voi. Ma il progetto viene dopo, perché come dicevo prima, qui siamo nella fase... Cioè loro vi danno delle idee, mettono le loro competenze, diciamo, fate un brainstorming con questi ragazzi. Se portano qualcosa di buono, si passa alla fase progettuale. Ma in quella fase voi non vi impegnate a tenerli dentro. Può essere anche sì, ma non si sa. Sicuramente il fatto di partecipare a un'iniziativa di questo tipo, cioè a questa collaborazione che noi proponiamo, diventa poi un qualcosa che va a finire sul curriculum, evidentemente. Sul curriculum, però, che ci metto lavorato gratis, mi ridono in faccia. Cioè, se voglio, faccio 100 pagine di lavori gratis. Non ridono in faccia, proprio perché noi la cosa la facciamo in modo... in modo ufficiale. Ma che differenza c'è tra uno stage, formale, ad esempio? Cioè, se fosse una cosa così fatta su base quasi di conoscenza. Ma rilasciate un attestato di frequentazione, diciamo, dell'azienda, una cosa del genere. Certo. Ecco, quindi hanno un pezzo di carta che hanno. È come uno stage, però non. Esatto. E perché non è uno stage? Ad esempio. Non si chiama così perché lo stage è connesso all'organizzazione universitaria, è connesso, però di fatto è questo. Fermiamoci un secondo, Tiziana, buongiorno. Buongiorno, sono Tiziana e chiamo da Cercina in provincia di Livorno. Volevo dire che io allo stato attuale ho uno studio di fisica e di acustica ambientale e circa 12 anni fa ho lavorato per alcuni mesi come tirocinante presso un dipartimento dell'ARPA Toscana. Lei avrebbe dei requisiti, avrebbe requisiti per questo bando, perché vengono cercate persone con la sua caratteristica professionale. E probabilmente avrei requisiti, ma diventa un po' complesso andare a smuovermi e andare a lavorare in maniera non retribuita dalla Toscana alla Valle d'Aosta. Ma però cosa voleva dire comunque? No, volevo dire che la differenza fra quello che ho fatto io e quello che viene proposto adesso è abbastanza brutta. Io ho fatto un tirocinio su richiesta finalizzato al raggiungimento di una qualifica professionale. Questo mi sembra la richiesta di lavoro da parte di un professionista in qualche modo già formato che sopperisce a delle mancanze di qualcun altro. Vabbè, questo è chiaro, se cercano persone vanno a riempire dei vuoti. Agnesò, voi cercate persone perché vi manca qualche competenza probabilmente, sennò perché le cercherete? Noi vediamo questo come una come dire, una possibilità che apriamo. Beh, voi vedete qualcosa. Vabbè, mica lei è Madre Teresa di Calcutta, lo fa perché evidentemente per la sua azienda sarà utile. Certo, certo, c'è per parte nostra evidentemente c'è una un'utilità che viene dal fatto che una persona con competenze collabora e porta il suo contributo. Però vede il risultato, scusa Agnesò. Se il bando scade domani e sono due persone, oggi è scaduto praticamente, quindi due persone o bevete o affogate, se non vi vanno bene questi due è andata a buca, quindi non ha molto funzionato la cosa, forse, non lo so, può essere, può essere, però ci avete provato, ci avete provato. Va bene, grazie, buona giornata.